Rock Wave. Rock Wave, l'onda del rock. Rock Wave Live. Buonasera a tutti, è Stefano Dainese che vi parla. Una serata un po' inusuale per me questa, ma è una occasione importante che mi ha portato qui negli studi di Blue Radio Veneto. Abbiamo con noi dei musicisti che sono venuti per presentarci un disco molto bello e per suonarci dal vivo alcuni brani da questo e forse anche da altri dischi. Si tratta di Caroline Keating. Did I say it right? Yes, you did. Sì, l'ho detto giusto, Caroline, non si sa mai se è Caroline o Caroline. Ed è accompagnata da Sebastian Chow. Yes, that's right too. Ecco, questo è un cognome un po' strano. Loro vengono dal lontano Canada, sono in tour in Europa in questo periodo e si sono fermati nei nostri studi per farci ascoltare, per presentare il disco di Caroline, che si intitola Silver Heart, che è uscito qualche mese fa, nell'autunno del 2012, in Canada per l'etichetta Factor e distribuito poi in Europa dalla Glitter House, etichetta tedesca che non sbaglia un colpo, hanno un line-up di musicisti veramente di altissimo livello e Caroline è l'ultima arrivata anche per ragioni anagrafiche e adesso le chiederò un po' di cose sulla sua storia, ma prima, come sempre facciamo, vi facciamo ascoltare un brano per aprire questa serata e per introdurvi alla sua musica. È il pezzo che dà il titolo al disco, Silver Heart, da Caroline Keating, e poi ci risentiamo per il live. Buon ascolto a tutti. Wave, l'onda del rock. Rock Wave Live. Silver Heart era questa canzone che dà il titolo all'album di Caroline. Cominciamo con una domanda un po' stupida, perché Silver Heart vuol dire cuore d'argento, è un suo connazionale, Neil Young, scrisse una canzone intitolata Heart of Gold. Is there any connection with Neil Young's song Heart of Gold in your Silver Heart? Because you're born in the same country. I know. I wish there was, but there isn't, because I'm a huge fan of that song. Like, I've listened to it probably 50 times on tour. But I think the meaning is similar, because in the song he's saying he's searching for a heart of gold. And in my song, I'm saying, when I say silver heart, I mean trying your very best, but not being able to accomplish to get gold. There. Mm-hmm. Si dice che appunto c'è un riferimento, ma non l'aveva pensato. Lei è una grande fan di quella canzone in particolare, e Neil Young nella sua canzone dice che sta cercando un cuore d'oro, e lei invece dice appunto che nel suo brano si parla soltanto di un cuore d'argento che ha un livello un po' inferiore. It's like the Olympics, mm-hmm. come le Olimpiadi, insomma. Yeah. Lei appunto viene dal Canada, è nata a Quebec City, adesso si è spostata a Montreal. Am I right? You are born in Quebec City, yeah. And now you live in Montreal. Exactly. Non so Quebec City che tipo di città sia, se è un paesetto. How big Quebec City is? About 500,000. Okay, so yeah. It's not a small city. It's not a small city. Mezzo milione di abitanti, comunque. Yeah. Non è la storia della ragazzina che parte dal villaggio. It's not the story of a small town girl who went into the big cities. But it feels that way a little bit, because even though there are a lot of people in Quebec City, it's very small in spirit a little. Not much culture, not much local culture anyway, compared to Montreal, which is exploding. It's a metropoli. Yeah. Si dice che comunque, anche se a mezzo milione di abitanti, il passaggio da Quebec City a Montreal dal punto di vista dell'ambiente rappresenta un grandissimo passo avanti, perché appunto Quebec City ha comunque una mentalità provinciale, mentre Montreal è più internazionale, insomma è una metropoli. Lei aveva esordito con un extended play nel 2008, poi non so, il disco è uscito nel 2012. Voglio chiederle un po' come mai è passato così tanto tempo. I read that you made an extended play in 2008, right? That yes. was your debut. Mm-hmm. And then you had to wait 4 years for a full length yeah. record. What happened? Well, maybe you were underage in 2008. Forse era minorenne nel 2008, non poteva. I didn't wait. I feel like I made people wait. I just didn't feel ready to make an album. I was very young. I mean, not very, but I was not 20. And I felt that I needed to mature and grow as an artist before making something. Looking back, maybe I waited too long, but that's what I did. Yeah. Si è detto che era molto giovane, appunto, e non si è sentita pronta per fare un disco vero e proprio, un disco di lunghezza normale, quindi ha lasciato passare il tempo per maturare, una cosa quantomeno inusuale. I think this is very unusual. Yes, that is pretty usually young unusual. People want to hurry yeah. up things. Yeah, that is very unusual. I mean, I was just playing my songs for myself, basically, and someone heard me and had me play in a festival in Montreal called M for Montreal, and it's a very international festival, and there were a lot of people there. And after I played the next day, I had many emails from all over the world asking me, when will my album be coming? And lei suonava praticamente per se stessa, insomma, però qualcuno l'ha sentita e l'ha invitata a un festival che si chiama M for Montreal, e il giorno dopo questa esibizione ha avuto la casella della posta intasata da mail di gente che chiedeva appunto di un suo album. e quindi immagino che anche trovare l'etichetta discografica non sia stata una grande fatica. I suppose that after that it was not a big deal for you to find a record label. You had only had to choose which one. Yes, but here is the funny thing is that I said no to everyone and I said I don't want to do this. I want to study and I want to write my music in peace and I did not want to be a musician. And then quindi dopo questa cosa alle richieste delle case discografiche che volevano fare un disco ha risposto a tutti di no perché non si sentiva ancora pronta e voleva appunto studiare ancora, prepararsi e fare le cose con calma. Very surprising story, questa è una storia sorprendente e perlomeno è un po' diversa da tutte le storie che sentiamo sempre dai musicisti che invece hanno dovuto magari aspettare anni per trovare un'etichetta. Lei sicuramente è stata più fortunata. You are a very lucky girl because usually the stories I've heard are exactly the opposite, you know. Yeah. People that had like 5 records ready and yeah. No record label to publish them. Well, then I regretted it later. Well, regret is not the right word, but then when I was ready to make my album, well, where did everyone go? Because it was the hip was gone. Gone because in the music industry things move so fast. You have to pick it while it's hot, or else, you know. Ah. It's gone. Si è quasi pentita dopo perché quando si è sentita pronta poi di fare il disco ha dovuto ripartire da zero perché non è che le etichette discografiche fossero state lì ad aspettarla, ha dovuto invece mettersi lei a cercarla perché nell'industria musicale le cose passano molto velocemente e quindi sarebbe stato forse più logico cogliere l'attimo. È vero che se lei non si sentiva matura probabilmente il risultato non sarebbe stato valido. I think that if you didn't feel that was the right time for you to make the record, mm-hmm. for sure the result will not have been very good. I mean, that's what I feel because it starts too. All from you. I in a way I feel like this is my second record because my demo had 10 songs on it and it was treated like a first record. It kind of received local press that made it seem like a release, but in fact I don't even know where that record is. It was just I made it at home and gave it all away. Ah, so you don't have it. No. Si è detto che del primo disco gli era, non è rimasta nemmeno una copia perché lei lo dava in giro un po' a tutti quanti e praticamente era stato realizzato così in maniera molto molto semplice, erano 10 canzoni, quindi è stato recensito e recepito come un vero disco d'esordio, ma è chiaro che il suo vero esordio, quindi dal punto di vista magari anche psicologico, è questo Silver Heart. I think for yourself, this is your real yes, first record. Yes. Okay. Yeah. Can you play something for us now? Yeah, sure. Cominci a suonarci qualcosa. So you've already played Silver Heart from the record, but I was going to play that live. Okay. No. Perfect. So we can feel the difference. Perfetto. Ci risuona la canzone Silver Heart che abbiamo sentito prima e adesso la sentiamo in versione unplugged, diciamo acustica, con la sua tastiera. Quindi è Caroline Keating dal vivo qui su Blu Radio Veneto. Buon ascolto a tutti. I never saw you so alone as you are in your thoughts by the steps. What could be wrong? What could be wrong? What could be wrong? Could be wrong. Don't be hard on yourself. Don't be hard on yourself. So choose your silver heart again. I'll be waiting and part your worries to the ground. I'll be facing, well, I'll be facing you once again. it all, but I never saw you so in love as you are in my arms by the steps. It could be wrong, it could be right, it could be wrong, but it might be right. Don't be hard on us yet. So choose your silver heart again, 'cause I'll be waiting, ooh, I'll be waiting. And part your worries to the ground, I'll be facing, well, I'll be facing you one again. Silver Heart dal vivo nei nostri studi da Caroline Keating. Lei è, come abbiamo detto, viene dal Canada, è un paese che ha regalato musicisti molto importanti, fra i quali, diciamo, dell'ultima ondata ci sono anche gli Arcade Fire, uno dei cui componenti suona in questo disco. One of the people from Arcade Fire is playing in your record, so how did you get in touch with them? Come sei entrata in contatto con loro? Well, actually, he doesn't play on my record, he plays live with me. Ah, so okay. That's okay, yeah, so, but it's actually crazier that he plays live because it's more work. Yes, very surprised. Si dice che in realtà non suonava nel disco, ma suona dal vivo con lei, che è una cosa abbastanza sorprendente, perché chiaramente per fare un disco l'impegno è molto più limitato, mentre per suonare dal vivo uno che fa parte di una band di successo mondiale fa un po' fatica normalmente. Maybe he's in love with you. No, he's married for same woman 10 years, something crazy. They just got married, but it was a joke. So yeah. Magari innamorato di lei, invece è felicemente sposato. Well, actually, he likes to eat at this restaurant where my bassist works as a waiter, and my bassist said to him, well, I play with this girl and we're looking for a drummer. I don't know if you have any time. And he said, sure, you know, and we'd go to his house and we'd practice. And it's very Montreal, like this community, especially Arcade Fire, they give back a lot to Montreal's community. This is great. Si è detto, la storia è un po' da film quasi, da commedia. Insomma, la sua bassista lavora come cameriera in un ristorante dove appunto il batterista di Arcade Fire va a pranzare, e un giorno gli ha detto, guarda, io sono con questa ragazza e abbiamo bisogno di un batterista. E lui ha detto, sì, volentieri. E la cosa appunto è sorprendente, parlando di un musicista che fa parte di una band così importante e famosa, però mi dice Caroline che nell'ambiente musicale di Montreal è abbastanza normale che gli Arcade Fire in particolare stanno contribuendo molto a collaborare, ad aiutare anche musicisti meno famosi. Direi che è una bellissima cosa, mi ricorda un po' quello che sentivo dire di Seattle 20 anni fa. It reminds me of stories I've heard about Seattle. Mm. You know, very famous musicians like Pearl Jam, for example, that were playing with friends all the time for free and you know, just to help them out. Appunto, i Pearl Jam in particolare erano famosi per aver aiutato molti altri musicisti della comunità di Seattle. È bello che a Montreal ci sia questa stessa situazione, diciamo. E dopo aver fatto il disco in America, lei appunto ha avuto questo contatto con la Glitter House, che l'hanno chiamata loro. So you've been called by Glitter House, just out of the blue phone call, or? Well, my booker in Germany, who does my shows, gave them my CD and he told them I was looking for a label. And I think Glitter House, they're very uncomplicated. They like something, everyone votes, okay, we signed. And it was very simple and easy, and I really liked their mentality of music, and the way they do their business is very it's very creatively free for an artist. So yeah, maybe they were lacking of male voices. Now they start with for I'm thinking about it. For a while, they only had male musicians. Yeah, yeah, it's a very male label. Even you know, when I go visit, it's like a lot of men. But yeah. Germans. Sì, ha detto che il suo manager tedesco, quello che organizza il suo booking per la Germania, aveva mandato una copia del CD all'etichetta, appunto, la Glitter House. E lì le cose sono molto semplici. C'è una votazione e se la maggioranza è d'accordo per pubblicare il disco passa, quindi l'hanno chiamata, l'hanno detto che la volevano. A me è venuto in mente che c'era anche forse il fatto che la Glitter House come etichetta ha sempre avuto molti musicisti maschi e mancavano un po' di voci femminili. Adesso hanno lei, hanno anche Christina Uman e Andrea Schroeder, hanno cominciato insomma a trovare anche delle musiciste donna, peraltro tutte di ottima qualità. Adesso ci ascoltiamo un altro brano dal disco, da Silver Heart, si tratta di Lusty Dusty. I won't go. Rock Wave. Rock Wave, l'onda del rock. Rock Wave Live. Allora, siamo qui con Rock Wave Live, musica dal vivo con Caroline Keating, della quale abbiamo ascoltato adesso Lusty Dusty, che però era tratta da questo album che ci sta presentando. E, il Canada ci ha regalato alcuni musicisti, diciamo, molto molto importanti, cito Neil Young, Leonard Cohen e molti altri, ma lei spesso viene paragonata a Tori Amos, non so se la cosa ha qualche senso. I saw on the internet, on reviews of your record, that many people find some closer things between you and Tori Amos. Do you think this is correct, or? It cannot be correct, because I am ashamed to say I have never listened to a Tori Amos record in my life. Really? Dice, non è possibile, perché si vergogna a dirlo, ma non ha mai sentito dischi di Tori Amos. So it's nothing insulting to her. It's just she has such a large discography. It feels that it's like, I feel like I need a guide to where to start with her. I felt the same way about David Bowie recently. I've just started to listen to, and that's the problem when you're very young. Yeah. Si dice, non è ancora cominciato ad ascoltare la discografia di Tori Amos, perché ha lo stesso problema che ha trovato nei confronti di quella di David Bowie, che sono una tale quantità di dischi che non sa proprio da dove partire. Il mio consiglio è sempre partire dagli inizi. My advice is to start from the beginning. The beginning. Especially Tori Amos, the first record, in my opinion, is still the best mm-hmm. or among the two or three best she ever made. Sì, penso che il primo disco di Tori Amos sia, se non il migliore, almeno a livello, uno dei due o tre migliori che ha fatto, quindi partire da lì potrebbe essere corretto. È chiaro che è un riferimento che viene molto facile, perché è una ragazza col pianoforte. I suppose that you know, people is lazy, and it's very easy to find a connection, because you're both girls and playing piano, and we both have red hair. Yeah, I was going to say that, and entrambi hanno i capelli un po' rossi, insomma, e quindi viene abbastanza facile. Prima ho citato, appunto, abbiamo citato Neil Young, ma vorrei sapere allora quali sono i suoi riferimenti. So what was the music you grown up with? Neil Young. A lot of. I suppose that in Canada, Neil Young is like a total hero for the whole country. Am I right? He's like a quiet hero. Yeah, Canadians tend to be the last to know about their heroes. They become like Leonard Cohen is someone else I listen to a lot, and Joni Mitchell, and I feel like those three artists had a lot of European touring and American touring, and then Canada realized, oh, they belong to us. Well, we should be proud of them, but we realize later, you know. But I also listened, my mom put on a lot of Annie Lennox in the house as well. I like her. Sinead O'Connor, those were the music that I was listening to growing up. Dice che i canadesi tendono ad accorgersi un po' in ritardo delle loro glorie, perché ha detto che appunto Neil Young, Leonard Cohen e Joni Mitchell, che sono, insomma, il trio di quelli veramente famosi, hanno cominciato ad avere un enorme successo negli Stati Uniti, in Europa, e a fare lunghe tournée mondiali. Allora a quel punto i canadesi si sono svegliati e hanno detto, ehi, questi sono veramente forti, sono i nostri connazionali, sarebbe il caso di dargli un riconoscimento. Però lei è cresciuta con sua mamma, che suonava i dischi di Annie Lennox e di Sinead O'Connor, che sono sicuramente due cantanti straordinarie. Both are great, great vocalists. Sinead O'Connor mm-hmm. and Annie Lennox. Yeah, they're incredible, and I found they were different from other women of their time. I think they were feminists, you know, in their approach to their look and their music. Very beautiful music as well, of course. Si dice che anche le piaceva l'atteggiamento che avevano Sinead O'Connor e Annie Lennox, un po' femminista, cioè erano diverse dalle solite cantanti. In effetti sono due donne dalla personalità molto molto forte, che diciamo si contrappone molto al, secondo me, all'immagine di certe cantanti che ci propina MTV, che insomma, yeah, there's a very big difference between Sinead O'Connor and Lennox and many female singers that you see on TV all the time, mm-hmm. that are mostly naked and you know they are it, of course both those ones that didn't need that because they were such a strong vocals, mm-hmm. And artist, mm-hmm. that that was more than enough, right? Mm-hmm. Sì, infatti appunto la forza di una voce come quella di Annie Lennox o di Sinead O'Connor non aveva bisogno di video milionari o di vestiti diciamo poco coprenti. But Sinead O'Connor got into trouble. Yes, sì, Sinead O'Connor è un po' mattacchiona, lo sappiamo. I know she had big trouble. Yeah, but she's still singing and making music, so that's great. And I remember listening to her interviews about recording and releasing a record, and I found it very helpful because I was going through similar feelings that she was talking about. So, yeah, she's a bit of a hero to me. Ah, detto che un'intervista a Sinead O'Connor in cui parlava della registrazione di un album e di come farlo, di come realizzarlo, le è stato molto utile perché lei appunto stava cercando di fare la stessa cosa in quel periodo e ha trovato un aiuto appunto da questa intervista, cosa interessante, per cui è un po' una sua eroina. Fra l'altro adesso sembra sia tornata nel mondo della musica in maniera stabile. It seems that now she's back into music and she solved some of her personal problems. Sì, insomma, aveva avuto dei problemi piuttosto seri. Allora, vi ricordo, siamo su Blu Radio Veneto in studio con me, Caroline Keating e Sebastian Chow, che adesso ci suoneranno un altro brano, penso sempre dal disco. Are you going to play another song, please? Yeah, I will play another song. I'm going to play the song called Billy Joel. Okay, la canzone si intitola Billy Joel. Making you work. To sing along to Billy Joel all night long, and I used to cry along to New York State of Mind, and I used to be the one you said you loved without my makeup on. I was the one you said you loved, oh, how are you now? How are you now? Well, I'm fine, thank you. Take a look at yourself and tell us that's what you want. And if that's what you want, then come on, oh, come on and get us on. You want your rainbow, then you've got to put up with your rain. You want your rainbow, then you've got to put up with your rain, with your rain. So don't follow those that don't make your heart go oh, and don't hold hands that don't make you sweaty. Chin up, oh, chin up, oh, chin up, 'cause you're doing fine. Take your time, be kind and fake a smile. Tell yourself this over once or twice, and then you'll find suddenly everything's alright, alright. Suddenly everything's alright, alright. Alright, alright, alright, alright, alright. I'm gonna kiss you with my eyes open, and I'm gonna name a galaxy for your freckly way, and there ain't nothing you can do or say that won't make me love you like I do. And I'm gonna take what I want, 'cause I know what I want, and I want it now. Oh, when it rains or it pours, or yes, it pours down rainstorm. So you want your rainbow, then you've got to put up with your rain. So don't follow those that don't make your heart go whoa, and don't kiss him if he doesn't think you're funny. chin up, cause you're doing just fine. Take your time, be kind, and fake a smile. Tell yourself this over once or twice, and then you'll find suddenly everything's alright, alright. Suddenly everything's alright, alright. Alright, alright, alright, alright. And how are we now? How are we now? We are alright. Wave, l'onda del rock. Rock Wave Live. Allora, la canzone che abbiamo ascoltato l'abbiamo sentita in due versioni diverse, quella dal vivo appunto che ci ha regalato Caroline qui nel nostro studio, e poi quella dell'album. La canzone si intitola Billy Joel, fa parte di una storia di canzoni dedicate a cantanti, insomma ce ne sono state tante. Sono un po' stupito che una ragazza così giovane abbia dedicato una canzone a un musicista che penso da molti anni insomma non è più sulla cresta dell'onda. I suoi momenti migliori li ha avuti quando lei era forse appena nata. I'm surprised that you dedicated the song to Billy Joel. There's a tradition of songs dedicated, named after other musicians, of course, but I was making some Mass, and I think that when Billy Joel was at the top of his career, you weren't born, or maybe you were in kindergarten. Yeah, I'm actually not really a huge Billy Joel fan. It's just the name of the song. I think I actually find him a little cheesy. Okay. Yeah, but... Si dice che non le piace poi tantissimo Billy Joel, però suonava bene. What happened? I actually, well, I really do. I mean, I like him, but he's not, like, amazing to me. I bought a Best of Billy Joel record. Actually, it was kind of like, I just found out that my mom was pretty sick, and I was trying to cheer myself up and write, like, the happiest song ever. And it's just kind of what came out when I, because I'd been listening to him that week. And it worked, because it turns out that it's my mom's favorite song. But yeah. Which song was this, sorry? Billy Joel, yeah. Ah, okay. Yeah. So I thought you were talking about a song from Billy Joel. No. Yeah. Sì, dice semplicemente che aveva comprato un Best of Billy Joel. C'è stato un periodo che sua mamma era molto malata, lei insomma era triste per questa cosa, e ha ascoltato parecchio quell'album perché cercava qualcosa di molto così divertente, e in effetti ha funzionato, e per questo motivo ha voluto dare questo titolo alla sua canzone, che poi è anche la canzone preferita della mamma di Caroline fra quelle di questo album. Io avevo pensato che fosse magari dovuto al fatto che Billy Joel era conosciuto anche per il fatto che si accompagna al pianoforte. I thought that it was because of the piano. The piano sounds a bit like a Billy Joel riff too. Yeah, I mean so. That you appreciate him because he's a piano player, yeah, too. Yeah, I do appreciate him, but I'm more of an Elton fan. Okay, but well, it's a different level. Yeah, huh? Yeah. We all agree on that. Si dice, forse dovendo scegliere, preferisce Elton John, direi che siamo tutti d'accordo su questo. E, non so come siamo messi con gli orari, comunque vi ricordo che state ascoltando Rockwave su Blu Radio Veneto, una serata particolare questa con Caroline Keating, che è venuta dal Canada, chiaramente non è venuta apposta per trovare noi, ma è in tour in Italia, in Europa, anzi adesso volevo chiedere appunto che effetto le fa, e se è la prima volta anche. Is this your first time in Italy? This is my first time in Italy as a musician. Oh, okay. Which feels like my first time in Italy, because I've come as a tourist, but I just saw touristy things. Well, which are not bad at all. Which are not bad at all. Yeah, they're beautiful. Yeah. Sì, è venuto in Italia come turista, però venire come musicista, what's the big difference? You talk more with people, of course. You talk more with people, and you get to actually see how Italians live, and as opposed to staying, you know, in a hotel and then going to see these beautiful buildings, which is, it's a lovely experience, it's just different. Yeah, si dice che la grossa differenza è che venendo a suonare si parla con le persone, si vede appunto come viviamo noi italiani, e quindi si è un po' più dentro invece di fare le solite cose che si fanno sempre come turisti. E, non so che effetto le fa suonare per persone così lontane, che non, magari sa che non seguono i testi. And it's a big difference for you to play for people that you know that don't follow the lyrics, for example, and they just listen to your voice. And... We've played a lot in Germany, and I think in certain cities it's similar, where people don't understand what I'm singing. And I never really thought about it for some reason. I always just, I don't really think about it when I'm singing, or else I would just lose the connection with my lyrics, I think. But I can tell you that there's a very big difference between German crowds and Italian audiences, very different. Ah, sono stato molto in Germania, e anche lì c'è appunto il problema che la gente non segue i testi, però lei non si è mai fatta un particolare problema, e vede che comunque c'è una partecipazione, però dice che c'è una grossa differenza tra il pubblico italiano e quello tedesco. Can you go deeper into this? Well, Germans are very reserved, very very reserved, and sometimes I don't know if they're enjoying it because they're so timid, you know. And then I'll know afterwards, wow, that was so great. Like, what a great evening. Thank you so much. They're very quiet. And Italians are very, like, not reserved. If they love the song, they will, like, make huge hand movements and cheer. And if they're, like, yesterday we played a show in Torino and people were just kind of hanging out on the floor and, you know, couples were holding each other, and it's just a lot more involved. But I think Germans are involved, but it's just doesn't show as much. Yeah, it sounds like a stereotype. So it does, but coming from someone that can watch us from outside, it means a lot. Riassumo, lei appunto è interessante questa cosa perché lei viene da un paese molto lontano, quindi vede l'Europa da un punto di vista che noi chiaramente non possiamo avere. Dice che i tedeschi sono più riservati e un po' timidi, anche se vogliamo, per cui le è capitato di suonare parecchio in Germania e a volte non riusciva a capire se quello che stava facendo veniva apprezzato o no, finché magari alla fine poi dello spettacolo riceveva tantissimi complimenti e la gente era molto contenta, le ringraziava tanto perché aveva passato una serata magnifica. E invece in Italia ha detto che ha il feedback immediato perché la gente si fa notare subito. Parlava di un concerto a Torino dove durante una canzone c'erano delle coppie che si abbracciavano sotto al palco. E insomma, noi non nascondiamo la partecipazione. E ho risposto io che è un po' uno stereotipo, se vogliamo, appunto, che i tedeschi siano così e noi italiani siamo nell'altro modo, però evidentemente, visto da un osservatore imparziale ed esterno, è la dimostrazione del fatto che gli stereotipi hanno un fondamento. So you just showed us that the stereotypes are born for a reason. Sometimes I think stereotypes, there's a little bit of truth behind, well, inoffensive stereotypes. Yes, know? Of course. Yeah. Si dice, chiaramente parliamo degli stereotipi innocenti, insomma, non quelli che servono per parlare male di un popolo. So for Sebastian. Yeah, we're here with someone. Sebastian è qui col violino, al momento non ha fatto niente. I think it's time for him to do play his part, right? Yeah. Sì, adesso ci suonano qualcosa, si sentirà anche il violino di Sebastian. Sebastian è canadese, anche lui. Are you Canadian as well? Yes, I am. But born from a Canadian family, perché è un aspetto un po' orientale per me. You look like Japanese to me, I don't know, maybe. Well, I was born in Canada, but my parents are Chinese. Ah, ok, figlio di cinesi nato in Canada. Ok, maybe it's a big, nice story as well. I guess there are many Chinese in Canada. Ci sono molti there cinesi are. In Canada. Canada is very multicultural, specifically in Vancouver and Toronto. Ah, on the other side. Yeah, Vancouver's in the west, and that's where my mom's family immigrated to, and then my dad's family was in Toronto, and then they met out in the west. Well, so you've never been in China? Or? No, sadly no. No, quindi non è mai stato neanche in Cina, non è mai stato. La sua famiglia appunto viene dalla costa ovest degli Stati Uniti, che è quella del Pacifico, dove c'è una comunità cinese come a San Francisco peraltro, e poi si è spostato, rimanendo dentro il Canada, si è spostato di 5.000 km. So you stayed inside the Canadian border, but you move up, I don't know, 5,000 kilometers. I was actually born in Ottawa. Ottawa, okay. And not Ottawa? Yeah, and then I moved to Montreal for school, and I've been there ever since. Okay, è sempre vissuto a Montreal. E suona, you play violin. I do, yeah. It is kind of uncommon. All the young kids prefer to play electric guitar and destroy the neighborhood. Well, lui suona il violino, è un ragazzo molto giovane, di solito preferiscono fare cose più rumorose. I guess that's a testament to my Asian upbringing. Really? Well, all the young Chinese kids have to learn an instrument at a young age. I didn't know that. Ok, pare che tutti i bambini cinesi debbano imparare uno strumento da piccoli, e quindi questo è un po' un richiamo alle sue radici cinesi. And you choose violin. I actually didn't choose it. My parents non ha scelto lui il violino, ma i suoi genitori gliel'hanno. But you, at the end, you like it, of course. Alla yeah, fine, insomma, there piace. Was certainly. Well, there's that period where I had no idea what I was doing. I was just going through the motions because I was so young. And then there's that period of rebellion, teenage rebellion, where I hated it. Yesterday, in your case. Yesterday. Yeah. Sì, hai detto, hai avuto un periodo di ribellione giovanile. Ho detto, sarà stata ieri perché insomma giovanissimo e avevo un po' mollato il violino. And then now, clearly, I'm. Yeah, I love it. Adesso insomma è tornato ad apprezzarlo. C'è da dire appunto che quando suoni il violino hai anche meno concorrenza. Insomma, più, secondo me, più. I think there's an interesting thing about playing violin. When a band is looking for a violin player, they don't have 200 people outside the door knocking, right? So you have the chance to play with many people in many occasions. Yeah, it's true. And it seems that many bands these days are looking for violins or strings anyways. Si dice anche che ci sono molti gruppi che stanno cercando suonatori di violino o comunque di archi, anche perché ci sono gruppi come Mumford & Sons che sono in cima alle classifiche suonando musica praticamente popolare. Sì, there are many bands that use violins and strings and all time instruments that are on top of charts also, so there's a comeback to this sound. Yeah, it'll be the new guitar one day. Sarà il violino, sarà la nuova chitarra. Sebastian plays his violin like a ukulele sometimes when. Ah sì, ogni tanto suona il violino come se fosse un ukulele. Maybe we'll show you later. It's me trying to channel my want to be a guitar player, maybe, secretly. Dice che segretamente vuole essere un suonatore di chitarra, un chitarrista. Ok, think it's up to you to play now. Yeah, let's play a new song. Adesso ci suona una nuova canzone. Yeah, it's called Old Faithful. Si intitola Old Faithful, and is it for the geyser in Yellowstone Park? Old Faithful. Yes, the big geyser in Yellowstone is called Old Faithful. Really? Ah, okay. It's not after that. Pensavo fosse dedicata al famoso geyser enorme che c'è al parco di Yellowstone che si chiama Old Faithful, ma lei non lo sapeva, quindi evidentemente la mia supposizione era completamente infondata. Old Faithful, Caroline Keating dal vivo qui su Blu Radio Veneto. Buon ascolto. As hunters and scavengers, oh, we chase for it all. Though the bandits did warn you, small creatures can harm you. There's nothing like loving at all. Remember it all. Like clock. Bell tolls and we beg for a cause. Though your mother did warn you, it wasn't the work that did charm you. It was something like love. E questa era Old Faithful, una canzone nuova, mi fa supporre che lei si stia, non farà passare 4 anni prima del prossimo disco. So you're writing new songs now, and so we can imagine that we don't have to wait 4 more years for the next one. No, we're hoping to record next fall, so. Quindi spera di registrare nel prossimo autunno, l'autunno del 2013, mm-hmm. Quindi il disco dovrebbe uscire verso l'inizio del 2014. So the record is probably 2014. Yeah, early 2014. Yes, let's hope so. Okay, and at what point of the process are you? Do you have all the songs ready, or quante canzoni hai? No, we're about half. I feel like halfway. Halfway to having all the songs ready, I think. I like to go into the studio with 15 songs at least. Oh. And then having my pick of the ones that came out the best, because for example, my first record, that's what I did. And a lot of the songs that are my favorites only became a song at the very end while I was recording, and songs that I thought would make the album were forgotten completely. So cioè dice che vuole entrare in studio con 15 canzoni pronte per poi fare poi una selezione, perché le è capitato appunto col primo disco che alcuni brani di cui era convinta poi alla fine nel disco sono risultati non adatti, sono stati scartati, mentre altri sono stati scritti praticamente all'ultimo momento. È sempre difficile passare dal processo, diciamo, di creazione a quello di realizzazione, specialmente per una musicista giovane che magari non ha ancora una grande esperienza da questo punto di vista. Do you think that this is something that you learn with the time? I mean, if you are going to make your 12th record, you probably know exactly what to do and you go into the studio and you know it previously. But for such a young girl like you with the no long experience, the result of the studio, is it different from what you have in mind? I think that I will do a lot of things differently with my second record, and I hope actually that it never becomes something I know what I'm doing, because then where is the magic, you know? Ideally a record is something that's alive, you know, and not just a recording of a moment. So no, I don't think there should be a formula for each record. I think it should be different. But I still think your songs should be prepared. Yeah. Sì, dice che il prossimo disco lo vuole che sia diverso dal primo, però non vuole nemmeno avere già tutto pronto in testa, perché secondo lei si andrebbe a perdere il magico, la magia del momento. Quindi deve essere realizzato live, ha detto, nello studio, senza sapere al 100% cosa sarà il risultato. Ha detto non deve essere già fatto, ma però deve essere preparato, cioè ci deve essere un lavoro preventivo. Per far suonare il disco diversamente, forse non so, magari chiederà qualche produttore importante o qualcuno diverso. So to make the sound, the new record sound different, are you planning to hire some producer or some different musicians? Well, I think that there will be a lot more of Sebastian on this new record, because on Silverheart he plays on one song. The name of the song is One. And that's how we met, and we've become collaborators, and I feel like my new music has a lot of string music behind it. And yeah, I would like to work with a producer, but not a famous producer, but someone else, and perhaps even go to a different city to get a different feeling. Yeah. Mm-hmm. Si dice che nel prossimo disco darà più spazio a Sebastian, il qui presente Sebastian, che in Silverheart suona solo in una canzone che si intitola One, e ci saranno più archi, e per questo probabilmente si cercherà un produttore, ma facilmente sta pensando anche di andare in un'altra città per avere uno stimolo diverso, insomma, per cambiare aria e vedere che l'effetto che può fare sulla sua musica. E adesso ci ascoltiamo un altro brano dall'album, si tratta di So On. Wave Live. Allora, questa canzone era So Long Solange, prima l'avevo leggermente accorciato il titolo. E Solange è un nome francese. Mm-hmm. Loro sono del Quebec, quindi sono bilingue in realtà. You usually talk in French or in English between two of you? It's usually we speak in English, but when we are away from home, I like to speak in French with Sebastian because I miss the language. So I like to speak it. Sì, hai detto che a volte si parlano invece, normalmente parlano in inglese, ma a volte si parlano in francese perché quando, specialmente quando è fuori dalla sua città, le manca un po' il francese. Non so se sono andati a Santa Solana in Francia. Did you play in France? Or? No, they don't want me in France, apparently. They don't want you. Ah. Well, I don't know. They just don't know about me yet, the word. Pare non ha ancora avuto nessuna occasione di andare a suonare in Francia e non so se hai mai pensato di scrivere una canzone in francese. And you never wrote a song in French. I have written songs in French, but I don't think they're as good as my English songs because I'm like French is my second language. I'm bilingual, but I don't feel as comfortable writing music in French as I do in English. But it's an excellent exercise in leaving your comfort zone, and I'd like to write more. Si è detto che ha scritto delle canzoni in francese, ma non si sente ancora sicura di pubblicarle perché comunque il francese non è la sua prima lingua, è la seconda, e quindi si sente non pronta, ecco. Però da un altro punto di vista è un buon esercizio lasciare la tua comfort zone, appunto di mettersi in una situazione di insicurezza, perché questo può portare a delle sfumature sicuramente diverse nella musica. So we are waiting for your French record. Yeah. Yeah. Peraltro il francese potrebbe portare forse a scrivere qualcosa di diverso. Maybe if you write in French, you come out with the different music. I think the sound is very different. It's very musical sounding, and it's hard to write a song in French, actually. So I give. It's hard, really. I think so. I think it's harder than English. More syllables, more. Like Italian. Yeah, like Italian must be very hard too, you know, because it's so melodic, and then you play that on top of a melody, it can be very beautiful, but I think that it has to be done right, or it does, it, you know, like Barbara, the French singer, I don't know her, from the 60s, she's a wonderful French singer, songwriter, and she plays the piano as well. Ah, questa è una musicista che l'ho messa a nominare, Barbara, degli anni 60, una musicista francese che suonava il piano, l'ho usata come esempio appunto della diversità, dello scrivere in inglese o in francese. Il francese, diceva, appunto assomiglia un po' all'italiano perché ha molte vocali e quindi si tende a poi a appoggiare la melodia sulle vocali. So you, when you sing, you go on the vowels, especially, yeah. Right? Like mm-hmm. the classical Italian singers. Yeah. And also the opera mm-hmm. is very good to raise up your voice when you have a lot of or yeah. Or yep. Yeah, but it's an exercise. It's a different kind of singing, yeah, definitely, and a different, I think different songs happen because of just the sound of the language. Ti dice un modo completamente diverso di scrivere, probabilmente le canzoni verrebbero automaticamente diverse proprio per il suono della lingua. Allora, siamo sempre qui in studio con Caroline Keating, adesso ci suonerà un altro brano dal vivo ed è il pezzo Ghosts, Fantasmi, che fra l'altro credo sia anche così il pezzo trainante. Is this the song that is more played on the radios? Sì, è il pezzo, diciamo, quello che una volta è stato un singolo. In the past it used to be the single. Yeah, it's the single, but we have a different version. Adesso, sì, naturalmente la versione che sentiremo sarà diversa rispetto a quella del CD. Allora, dal vivo, questa è Ghosts, Caroline Keating e Sebastian Chow. Think about it, think about it good. I thought about it good. Slow down, down, down, down, down. I can't feel myself breathe or think about it. real good, real good, real good, real good. But you don't care for letters or sunshine or me, and these walls are so thin you can hear everything. You can hear everything. Stop, come back now, ghost. I'm not done with you yet, I'm not done with you. Stop, come back now, ghost. I'm not done with you yet, I'm not done with you yet. Done with you yet. And these sheets got less secrets than me. So say what you gotta say, do what you gotta do, take what you gotta take, and do what you want. No, go on and slow down, down, down. I can't feel myself feel, or feel myself breathe, or feel anything. But you don't care for letters or bike rides on me. With the wind in my ear, you could say everything. You could say everything. Stop, come back now, ghost. I'm not done with you yet, I'm not done with you yet, I'm not done with you. Stop, come back now, ghost. I'm not done with you yet, I'm not done with you yet, I'm not done with you yet. And the sheep got less secrets than me. Oh, the sheets got less secrets than me, than me, than me, oh, than me. Questa è una versione veramente unplugged di Ghost. Con Sebastian, che questo era un violino, quello che stava suonando, e lo suonava appunto come un ukulele. È una cosa un po' particolare, e tra l'altro intonato anche, secondo me, perché c'era un suono molto, molto semplice, quasi spettrale. Sound was a little bit ghostly. Yeah, sure. So very simple, very basic music. Yeah. Sì, peraltro lei, Caroline, ha cantato benissimo. Really good singing in this this song, because you know, when you don't have any instruments around, it's very challenging, I think, to play. Dico, suonare così quasi a cappella è più impegnativo. Oh, you think it's? I actually prefer, this is my favorite song to sing when we sing live. Really? È la canzone che preferisci in assoluto da suonare e cantare dal vivo? Because I get to invest all of my energy into my singing as opposed to having it divided. Ah, perché può usare tutta la concentrazione, tutta l'energia nel cantare anziché suddividerla con il pianoforte. Prima non le ho chiesto, ma forse ha fatto il conservatorio. Did you went to conservatory no, for the piano? Not at all. I'm not at all. I'm a very basic piano player. Yeah, I took lessons when I was a kid, but I haven't had lessons since I was 16. Yeah. No, dice quasi un autodidatta, ha avuto lezioni quando era bambina, ecco, e poi si è arrangiata da sola, comunque direi molto bene. I think it works very well. Oh, yeah, anyway. Thank you. I prefer singing though, I think, to playing the piano, and sometimes I want to throw my piano out the window and pick up a guitar and wish I, but guitar is, it doesn't speak to me, the instrument. I really think it's important to play an instrument that you feel very comfortable with, where it's almost like it's talking to you to play. Yeah. And I've never felt that. I feel more connected to a bass, actually, than to a guitar. Sì, è strano, dice che a volte viene voglia di buttare via il pianoforte e prendere una chitarra, però quando ci ha provato non ha avuto soddisfazione, la chitarra non le dà quel tipo di ritorno, di feedback appunto che le dà il pianoforte, e in realtà a volte preferirebbe suonare il basso anziché la chitarra. Sarebbe abbastanza interessante, non ci sono molte ragazze che cantano suonando il basso, mi venite solo Gaylan Dorsey. There are not so many girls that sings playing bass. I mean, no. Also among the men, Paul McCartney, Sting, yeah, and a few more. But among the females, I only remember Gaylan Dorsey. I don't even know who she is, unfortunately. She played with David Bowie, among the others. Sì, è stata il bassista di David Bowie, ma aveva anche una carriera sua, diciamo. Non so come mai questa cosa del basso. But you hai mai suonato il basso? Did you ever play the bass? Just a dream of yours? When I was a teenager, my friend lent me the bass, and also the bass is a lot easier than the guitar. To me, it feels easier. To you, okay. To me, but I think it felt easier to play for some reason. I don't know why. But no, before I leave this continent, I have to buy a new instrument. I haven't decided. I thought I wanted a guitar, but maybe I actually want a bass. Dice che da ragazzina gli avevano prestato un basso e si è trovata molto bene a suonarlo, l'ho trovato più facile della chitarra, al punto che poi appunto prima di lasciare il nostro continente, di tornare nel suo, vorrebbe comprare uno strumento e stava pensando a una chitarra, ma è molto indecisa perché più facilmente sarà un basso. Non so se come mai lo deve comprare qua, forse per via dell'euro. It's because of the euro that you want to buy an instrument in this continent? No, I just have a month off. I'm not doing anything in April, so I will learn an instrument in that month. Ah, okay. Ma are you staying in Europe for the whole month? Yeah, I'm going back to Germany. Yeah. Ah, sì, quindi resterà un mese in Europa senza avere niente da fare, e per poi ricominciare il tour tedesco in cui suonerà anche al Orange Blossom Festival. E allora appunto vorrebbe cogliere questa opportunità di un mese libero per imparare uno strumento. Ok, interessante. Good luck with that. Yeah, it's not a lot of time. Bene, ci ascoltiamo un altro brano dall'album, si tratta di Gatsby. Out. I am waiting, I am watching. You were wrong when you said you knew me. Built it up with your hands, and I owned it, and I housed it. Oh, I remember oh so well. She died a quiet death in her room last fall, and we danced a thousand footsteps pounding on till dawn. Then we never saw her again, and I was in a fighter. Rock Wave, l'onda del rock. Rock Wave Live. Questa canzone si intitolava Gatsby ed è estratta naturalmente dall'album di Caroline Keating che si intitola Silver Heart. Siamo alla fine di questo appuntamento dal vivo con Caroline e Sebastian. Adesso ci lasceranno con un'ultima canzone che fra l'altro è dedicata alla loro città. Volevo ricordarvi naturalmente questo è Rock Wave su Blu Radio Veneto, i nostri appuntamenti live sempre numerosi e sempre piacevoli anche per noi che li conduciamo. Ringrazio naturalmente anche Agostino per la regia sempre puntualissima. Vi ricordo il nostro sito bluradioveneto.it dove fra qualche giorno sarà disponibile in podcast questa serata come tutti gli altri nostri live. Vi ricordo che Caroline ha un sito internet che è carolinekeating.com.net, l'ho perso di vista, e poi are you on Facebook of course, yeah, naturalmente Facebook. Anche su Facebook, quindi se volete avere informazioni, ormai Facebook ha sostituito i siti tradizionali e speriamo che torni presto a trovarci, magari aspettiamo anche il prossimo disco nel 2014, ma comunque lei ha anche un'agenzia di promozione italiana, quindi penso che ritornerà in Italia abbastanza velocemente. So you have a promoter in Italy, we can suppose that you will be back soon, yeah, right? I hope so, I really do. And you're always welcome if you want to come back to our studio. It's been a great pleasure to have you here. Thank you so much. And now the last song to say goodbye, good night to our listener, it's Montreal. La canzone Montreal, appunto, dedicata alla sua città. So you are really in love with your city. Yes, but it's like a very passionate relationship. Sì, dice che è innamorata di Montreal, è una relazione veramente appassionata la sua. So I wish one day I can see it by myself. Spero un giorno di andarci a Montreal, perché non è la prima persona che me ne parla in termini entusiastici. You're not the first one to tell me that is a very, very beautiful and nice city to stay. Maybe it's better to go there in the summertime, right? Yes, stay away in the winter, you stay away. Si dice, ecco, magari noi che non siamo abituati a certe temperature è meglio che se andiamo d'estate, perché l'inverno da quelle parti tende a essere piuttosto rigido. Bene, chiudiamo questo appuntamento con Rockwave, con Montreal dal vivo. Caroline Keating, thank you again thank you. For being here. Yeah. And, buonasera. Buonasera, exactly. It's been a great pleasure. And thank you to Sebastian as well. Thank you. Montreal. Montreal, you took me out. You showed me crooked rooftops and cotton mouths, and you tore off your clothes to keep me warm. And I think I'm gonna need a little time to myself, 'cause time apart has always done us well. Time apart has always done us well. You say it's for the best, well do you mean it for the rest? And you burn it to the ground, and you hope it's never found. But we built another one. So break me down and say it's for the best. Chew me out and eat whatever's left. And you've always said we would remain the best of friends. It's what you said. We would remain the best of friends. A time apart has always done us well. Time apart has always done us well. You say it's for the best, well do you mean it for the rest? And you burn it to the ground, and you hope it's never found. But we built, we built another You say it's for the best, well do you mean?